Corsa 24, i gialli della storia. Dallo Sport Stadion di Reykjavik, Nando Martellini vi trasmette la telecronaca dell'undicesima partita tra il campione del mondo in carica, il sovietico Boris Spassky, e lo sfidante ufficiale, l'americano Bobby Fischer. Bobby Fischer è stato senza dubbio il più grande giocatore di scacchi che ci sia mai stato. Spassky era il campione in carica, campione non dell'Unione Sovietica, ma del mondo intero. Spassky apre col pedone di re. Fischer risponde con la variante della partita siciliana. Entra in azione il cavallo bianco. Fischer si chiude in difesa. Noi americani eravamo stanchi di vedere i nostri scacchisti battuti regolarmente dai sovietici, da Spassky, Petrosyan, Botvinnik, Smyslov. Improvviso attacco di Spassky. Mangia il cavallo, perde l'alfiere, mette in posizione il secondo alfiere. No, Fischer attacca col pedone di torre, lasciando avanzata la regina, è un'imprudenza grave. Ma questo стало сразу же политическим вопросом. Si capì subito che quella sarebbe stata una sfida politica e non solo sportiva. В 70-м году, anzi, a un certo punto diventò un affare di Stato. Міжнаціональне нападення до Мальорки. Splendido, Fischer manda un cavallo a spezzare il centrocampo bianco. È scopertissimo. Нет, во-первых, действительно. Fu il match del secolo e nella storia degli scacchi ha creato uno spartiacque. Dopo niente fu come prima. È stato uno dei più grandi scacchisti di tutti i tempi. Con la sua genialità, le sue vanità, ha cambiato la concezione stessa del gioco degli scacchi. È Bobby Fischer, l'icona di un'epoca in cui il mondo era diviso in due tra Stati Uniti e Unione Sovietica. In quegli anni anche i campionati del mondo di scacchi erano terreno di scontro della Guerra Fredda. Eppure Fischer non ci sta, vince tutto ma non accetta che le sue vittorie vengano strumentalizzate per fini politici e allora abbandona tutto e sceglie l'esilio. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia incredibile di un campione geniale capace di grandi gesti nel bene e nel male. E lo facciamo come sempre con le voci dei protagonisti e dei testimoni, prima di tutti i grandi maestri scacchisti sovietici. Mark Taimanov, Yuri Averbakh e il biografo di Bobby Fischer, Frank Brady. Su Bobby Fischer oggi sono tutti concordi, russi e americani. Concordano sulla sua genialità e concordano anche sulla sua follia. Indubbiamente è una persona che ha dei problemi. Nella vita quotidiana è una persona tranquilla, per certi versi adorabile, ma senti anche che è capace di gesti folli. È come se avesse una doppia personalità e la follia può prendere il sopravvento quando meno te l'aspetti. È vero. È stato un genio degli scacchi, ma con un carattere che non era all'altezza del suo talento. Una volta gli fecero il test di intelligenza e ne risultò un quoziente altissimo, anzi astronomico. 180, davvero genio. È proprio così. Bobby Fischer ha avuto davvero una storia straordinaria ma schizofrenica che l'ha condizionato per tutta la vita. Fin da quando, giovanissimo, scopre gli scacchi. È stata sua sorella a fargli conoscere il gioco. All'età di 6 anni gli regalò infatti una scacchiera e lui fece le sue prime mosse nella casetta di Brooklyn in cui all'epoca viveva con la madre. Imparò a giocare bene e in fretta. La scuola non gli piaceva affatto e quando scoprì gli scacchi se ne disinteressò del tutto. Imparò a giocare bene e l'unica cosa che gli premeva era di migliorarsi nel gioco. Imparò tutto da solo, applicandosi con una dedizione incredibile. E voleva giocare con quelli più grandi di lui. Era fissato, voleva confrontarsi con i veri professionisti. Non credo fosse un ragazzo normale. I ragazzi normali vanno a scuola, socializzano con i propri coetanei, si interessano alle ragazze. Per Bobby invece esistevano solo gli scacchi. Thank you. Individualista dunque, e soprattutto ossessivo, anzi monomaniacale, ed anche asociale, come testimoniano gli avversari che lo hanno poi incontrato. Una volta in Germania, durante un torneo, noi giocatori andammo a cena tutti assieme. Bobby era in forma, brillante, e seduta accanto a lui c'era una bellissima ragazza, scacchista anche lei, che se lo mangiava con gli occhi. Così, a fine cena, mi avvicinai a Bobby e a quattro occhi gli dissi: «Dai, Bobby, invitala a ballare, che lei non vede l'ora». E lui mi rispose: «Non ci penso nemmeno, semmai ci gioco a scacchi». E lasciò l'albergo. Mi ricordo che una volta a Buenos Aires ci alloggiarono tutti nello stesso albergo. E la sera, come ovvio, ci si ritrovava al bar oppure alla reception per parlare e commentare le partite della giornata. C'erano tutti i giocatori, arbitri, tecnici, dirigenti, tutti tranne Fischer. L'ho visto anzi un paio di volte che stava per uscire dall'ascensore, ma visto che c'eravamo noi colleghi lì alla reception, ha fatto subito marcia indietro con l'aria terrorizzata e se n'è tornato in stanza. Idiot lift, открывается лифт, выходит Фишер. Quindi Fischer ha un carattere difficile e scontroso, ma negli scacchi è un vero genio. Ha soli 14 anni, è campione nazionale degli Stati Uniti ed è da tutti considerato un piccolo fenomeno. Ma negli scacchi da oltre 40 anni è l'Unione Sovietica a dettare legge. Dominatrice indiscussa, l'Unione Sovietica ha inoltre deciso di piegare lo sport alle esigenze della propaganda politica. In questa direzione gli scacchi sono un'arma micidiale. È dal 1924, su precisa indicazione di Lenin, che gli scacchi sono stati inseriti fra le attività sportive sostenute dallo Stato. E lo Stato ne ha favorito la diffusione con tutti i mezzi, su tutto il territorio dell'Unione Sovietica. La parola d'ordine dei dirigenti bolscevichi era: avviciniamo questo sport alla classe operaia, facciamo cioè anche degli scacchi uno sport di massa, in modo che entrino a far parte della cultura proletaria. I risultati non si fecero attendere. Pensate che nel 1917, l'anno della rivoluzione, si contavano in tutta la Russia solo 300 scacchisti organizzati. Nel 1934 ce n'erano invece più di 500.000. Si giocava a scacchi un po' dappertutto e gli scacchi non erano più un passatempo per nobili sfaccendati, bensì uno sport di massa per tutte le età e classi sociali. Tutta colpa o merito di Lenin, dunque, che degli scacchi è un grande appassionato. E il regime sovietico capisce ben presto che la passione popolare per questo gioco può essere sfruttata a fini politici e ideologici, in modo cioè da trasformarla in una possente macchina da guerra lanciata contro l'Occidente. Erano tre i pilastri della propaganda ai tempi dell'Unione Sovietica: il circo, il balletto e gli scacchi. In questi tre campi non avevamo rivali al mondo e chiunque fosse impegnato in queste attività era considerato una specie di ambasciatore dell'Unione Sovietica all'estero. Il circo, il balletto e gli scacchi erano cioè la vetrina del comunismo. La svolta ci fu dopo che nel 1948 la nostra squadra di hockey su ghiaccio perse inaspettatamente contro il Canada. Il Politburo decise che da quel momento gli atleti e le rappresentative sovietiche dovevano andare all'estero solo per vincere e naturalmente ogni vittoria veniva salutata come una dimostrazione della superiorità del sistema sociale rispetto al sistema capitalista. Alla vittoria sportiva si aggiungeva la vittoria politica. Succede in tutti gli sport. Ma negli scacchi l'onta di una sconfitta è ancora più grave, perché la supremazia sovietica è indiscussa, clamorosa e totale. Tutti i sovietici sono infatti i campioni del mondo che si succedono nel dopoguerra. Botvinnik, Zmajslov, Tal, Petrosyan, Spassky. Tutti sovietici, tranne uno. Un giovane americano, che proprio battendo Taimanov nel 1971 provoca uno scossone nella gerarchia consolidata degli scacchi, diventando ben presto il nuovo paladino dell'Occidente sportivo nella guerra fredda con l'Unione Sovietica. Al Dipartimento dello Sport mi fecero un processo sommario. Com'è possibile, mi chiesero adirati, che un grande maestro della scuola sovietica si faccia battere 6-0 da un moccioso di Brooklyn? Poi, nel corso di quello stesso anno, Fischer riuscì a battere Larsen, Petrosian e tutti gli altri pretendenti al titolo mondiale. E allora quegli stessi funzionari di partito si resero conto che quel moccioso di Brooklyn era invincibile. Fischer si sente il migliore, ma per dimostrarlo, per diventare re degli scacchi, deve battere il campione che da 4 anni domina la scena mondiale, Boris Spassky. È la partita del secolo. Seguita da tutte le testate del mondo, è un incontro dalle incredibili implicazioni politiche. Tra l'11 luglio e il 3 settembre del 72, a Reykjavik, in Islanda, i due si incontrano per il grande match. Amici degli scacchi alla visione e all'ascolto, buonasera da Bruno Pizzi. È un Bobby Fischer nervoso, molto nervoso, quello sceso in campo per questa prima partita della sfida mondiale. E non sembra volersi accontentare della patta a cui vorrebbe costringerlo il rivale con il suo gioco decisamente prudente. Fischer non ci sta e prova a stanare Spassky. Sacrifica l'alfiere e resta con 5 pedoni. Ma la 40ª mossa fa un errore decisivo, imperdonabile, e perde 1-0 per Spassky. Si capì subito che quella sarebbe stata una sfida politica e non solo sportiva. D'altra parte Fischer aveva già battuto tutti i nostri grandi maestri e quindi era normale che all'interno della federazione scacchistica ci fosse il panico totale. C'era il rischio concreto di perdere per la prima volta non solo il titolo mondiale, ma una storica supremazia che durava da 40 anni. As Americans we got... Clamoroso, signore e signori, è appena giunta qui a Reykjavik la notizia che oggi non si giocherà, perché Bobby Fischer ha dato forfait. Forse l'americano è ancora scottato dalla sconfitta dell'altro ieri, oppure è uno dei suoi soliti capricci. Sta di fatto che Fischer prima ha chiesto l'allontanamento delle telecamere dal terreno di gioco, poi ha insistito per giocare a porte chiuse, infine ha deciso di rinunciare alla partita. Spassky dunque ha vinto a tavolino e sono 2-0. Se Sparta piange, anche Atene però non ride. Ci vuole una telefonata di Kissinger, all'epoca segretario di Stato del presidente Nixon, per convincere a giocare un Bobby Fischer piuttosto recalcitrante e bizzoso più del solito. Kissinger gli disse: Bobby, devi assolutamente giocare. Lascia perdere le storie di soldi, lascia perdere anche le richieste tecniche che hai fatto e comportati davvero patriota. Vai e vinci. Sono le 5 di pomeriggio dell'11 luglio 1972, quando l'arbitro tedesco Lothar Schmid dà inizio alla partita del secolo. Davanti a lui, nervosissimo, c'è il campione del mondo in carica, il russo Boris Vasilievich Spassky. Eccezionale rimonta di Bobby Fischer, che passa a condurre per 3-2 alla fine della 6ª partita. Non ci credeva più nessuno, signore e signori. E invece l'americano ha recuperato tutta la sua lucidità, riuscendo a mettere alle corde il suo avversario in sole 41 mosse. Dopo la resa di Spassky, Fischer si è messo a saltare e ha ballato sul palco tra gli applausi della folla. La sfida mondiale si è dunque riaperta. È finita, signore e signori, la sfida mondiale è finita con un'ultima, limpida, nettissima vittoria di Bobby Fischer. In sole 41 mosse ha liquidato il suo avversario. Spassky in realtà ci è apparso rassegnato e rinunciatario, al punto da non presentarsi alla ripresa del gioco. E così, all'arbitro, Lothar Schmidt, non è rimasto altro da fare che alzare il braccio di Bobby Fischer e proclamarlo nuovo campione del mondo. Campione del mondo, Bobby Fischer. È il primo settembre 1972, quando un Bobby Fischer raggiante viene incoronato campione del mondo. Delle 21 partite giocate con Spassky in quei 55 giorni, ne ha perse solo 3, pareggiandone 11 e vincendone 7. Un vero trionfo. Un trionfo a stelle strisce. Spassky sbarcò a Reykjavik scortato da tutto l'establishment, non solo sportivo, dell'Unione Sovietica. E quando Bobby lo batté, si rese conto di aver vinto non solo contro Boris Spassky, ma contro tutto un sistema politico e sportivo, cioè contro l'Unione Sovietica. Mai come allora gli scacchi furono popolari. Anche a causa delle implicazioni politiche che aveva, quel match venne seguito infatti in tutto il mondo e decine di migliaia di persone si avvicinarono a questo gioco, familiarizzando per la prima volta con le sue regole apparentemente complicate. Fu un momento magico per gli scacchi, unico e irripetibile. L'unico a non approfittare di quel momento magico nella storia degli scacchi è proprio Bobby Fischer, che dopo la vittoria di Reykjavik si rinchiude in se stesso diventando sempre più paranoico. Bobby Fischer si barricò in casa come un recluso, facendo un po' la fine di Greta Garbo. Non diede più interviste, si rifiutò di andare in televisione, insomma, decise di vivere come un eremita e non come un campione del mondo. E quando nel 1975 rinuncia a difendere il suo titolo mondiale contro Anatoly Karpov, in quel preciso momento Bobby Fischer decreta la sua uscita di scena. È un suicidio sportivo, clamoroso, ma non inatteso. Dopo il suo volontario esilio, Fischer sembra un campione finito e dimenticato. Ma dopo 20 anni ricompare, ingrassato e calvo, un uomo molto diverso da quello che i media ricordavano. Ma il fuoriclasse americano si presenta ancora più combattivo di prima e ha voglia di sfidare tutto e tutti. È un Bobby Fischer molto diverso. Ingrassato, quasi calvo, con barba e baffi rossicci. Quello che fa il suo ingresso trionfale nella sala stampa di Sveti Stefan, in Montenegro, il 1 settembre 1992. Sono passati esattamente 20 anni dalla sua incoronazione a Reykjavik come re degli scacchi e Fischer ha deciso di riprendere a giocare come se il tempo si fosse fermato, concedendo cioè la rivincita al suo rivale del 1972, Boris Spassky. Naturalmente fui sorpreso alla notizia che si giocava questa strana rivincita. Non aveva alcun senso. Entrambi i giocatori erano alla fine della loro carriera e una sfida fra loro non poteva offrire alcun interesse sul piano scacchistico. Fischer aveva bisogno di soldi, tutto qui. Per questo accettò di giocare questa rivincita. In palio, non dimentichiamolo, c'erano 5 milioni di dollari. Non è vero però che il tempo si è fermato, nello sport come nella politica. Non solo la guerra fredda è finita da anni e non c'è più il muro di Berlino, ma gli Stati Uniti hanno appena decretato un embargo contro la Jugoslavia, dilaniata dalla guerra civile, e Fischer lo sa bene. Fischer sapeva che giocando avrebbe infranto la legge. Ricevette infatti una lettera del Dipartimento di Stato in cui gli veniva spiegato che una sua eventuale permanenza in Jugoslavia sarebbe stata considerata una violazione dell'embargo varato dal governo degli Stati Uniti contro il regime di Milosevic dopo lo scoppio della guerra in Bosnia. Ma lui se ne fregò altamente. Prima tirò fuori la lettera con cui il Dipartimento di Stato gli ingiungeva di non giocare, pena un'ammenda di $1 milione, e se non ricordo male, 12 anni di prigione. Poi brandì la lettera con evidente disprezzo davanti ai 300 giornalisti che erano presenti alla conferenza stampa, e infine disse: «L'ho ricevuta stamattina, e questa è la mia risposta». Più della partita di scacchi è quello sputo che passa alla storia, perché in realtà la rivincita fra Fischer e Spassky si rivela piuttosto deludente. Alla fine comunque vince Bobby Fischer, 10-5. Ma la sua esultanza dura poco, come a Reykjavik. Sparisce infatti di nuovo, anche se stavolta ha una ragione valida. Non può rientrare negli Stati Uniti, dove rischia l'arresto. Cominciò a nascondersi un po' dovunque, finché non lo scovarono le sorelle Polgar e lo convinsero a trasferirsi a Budapest per un po'. Non potendo tornare negli Stati Uniti, alla fine Fischer si stabilisce in Giappone. Ma chi pensa che si sia trasformato in un tranquillo pensionato si sbaglia. Anche qui Fischer torna a far parlare di sé. E non certo per i suoi virtuosismi alla scacchiera. Sono le 7 di mattina del 13 luglio 2004 quando le agenzie di stampa di tutto il mondo battono la notizia che all'aeroporto Marita di Tokyo è stato arrestato Bobby Fischer. Il suo nome fa ancora notizia e fa scalpore vederlo in TV dopo 15 anni trasformato in un barbone acciaccato che abbaia come sempre ma ormai non morde più. Fischer stava cercando di lasciare il Giappone con un passaporto scaduto e che non poteva nemmeno essere rinnovato viste le pendenze legali che aveva qui negli Stati Uniti. Venne arrestato quindi e subito si creò un caso diplomatico difficile da risolvere. Gli Stati Uniti ne chiedono subito l'estradizione, per via dei suoi reati passati, ma anche per le sue esternazioni recenti. Bob, infatti, non ha mai smesso di sputare sull'America e sulle sue istituzioni, arrivando al punto da giustificare l'orrore dell'11 settembre come una giusta punizione divina. Per difenderlo scende in campo anche Boris Spassky, I due storici rivali hanno scoperto infatti di avere molte cose in comune. Erano entrambi dei dissidenti. Sia Fischer che Spassky avevano infatti la lingua lunga e questo aveva creato non pochi problemi a tutti e due con i rispettivi governi. Per questo sono diventati amici. E quando Fischer venne arrestato in Giappone, Spassky scrisse al presidente degli Stati Uniti per chiedere un atto di clemenza. Negli ambienti scacchistici gli si perdona tutto. È un grande Bobby e lo resterà per sempre, anche se la sua follia a volte lo divora e gli fa perdere il senno. Molte nazioni gli offrirono asilo, prima fra tutte la Kalmukkia del presidente Kirsan. Ma alla fine Bobby optò per l'Islanda, un paese che adora gli scacchi e che lui ha sempre amato. Eccolo, Bobby Fischer che sbarca in Islanda il 24 marzo del 2005. Ha accettato il suo ennesimo esilio, l'ultimo di una lunga serie. Ed è anche l'ultima tappa di un viaggio lunghissimo ed emozionante che l'ha portato a vincere tutto, anche la Guerra Fredda, ma che gli ha fatto perdere l'unica, vera partita che contava vincere, quella con se stesso. Il 17 gennaio del 2008 Bobby Fischer muore a Reykjavik, improvvisamente nella stessa città che quasi 40 anni prima lo aveva incoronato campione del mondo. Restano la genialità di un incredibile scacchista e le bizzarrie caratteriali di un campione fuori dal comune che ha rivoluzionato il mondo degli scacchi. Dopo di lui, nulla sarà più come prima. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.